Un semaforo, scatenate l'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Apertura verso Alexandro, dentro si butta Maggio che ciocca al cross in mezzo! Quanto riguarda il girone, era un girone molto più difficile, il girone più difficile di questa Champions, e direi che i ragazzi sono stati molto bravi ad affrontarla, qualificarsi con un turno d'anticipo, non subendo un gol in casa, e quindi credo che la squadra stia crescendo. Ci vuole, è un percorso che questa squadra doveva fare, deve ancora fare, perché deve ancora migliorare molto. Dopo il Barcellona e magari anche il Bayern, io penso che poi c'è un bel gruppone nel quale c'è anche la Juve. Molti sono arrivati nuovi quest'anno, però non deve cambiare il loro nulla. Sono arrivati adesso, ma devono capire subito che questa è la competizione più bella, è la competizione che conta di più al mondo nel club, e quindi dobbiamo andare più avanti possibile. Voci di Juventus. Quella di Pardo l'avete sentita sul racconto del gol, e qui sta arrivando, arriverà in studio, c'è Giovanni Capuano qui con me, ciao Gio. Ciao Carlo, ciao. E soprattutto adesso c'è Claudio Zuliani al telefono, ciao. Ciao Zul. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Mi viene da dire dedicato ai contestatori, al fuoco amico su Max Allegri e su questa Juventus che non è mai mancato. Possiamo farlo, l'elenco delle dediche. Ha avuto ragione lui, caro mio, hai capito, ha avuto ragione lui. Pensa che io in macchina, mentre mi avvicinavo allo stadium, con due o tre miei colleghi dicevo: ma porca una miseria, però Allegri se ne cerca anche, voglio dire, quando la demolata sta fuori col Milan, mo stanno fuori pure stasera, pensa se non vince che Macedo che viene fuori. Io ho detto: ma vedrai che alla fine gli segna pure il palo della luce, e infatti ha vinto con il palo della luce. Il palo della luce, sì, grandissima considerazione per questo giocatore. Ma poi le dediche potrebbero anche essere altre, a quelli che ma la seconda stagione di Allegri, a quelli che ma l'anno scorso vinceva Conte, perché era merito di Conte, anche quest'anno a quelli che ma Allegri è un aziendalista, si è fatto comprare gente che non serve sul mercato, poi quella gente è ad esempio Alexandro, che scopri che è un minimo che non è un oggetto misterioso. Ma oggi li convochiamo tutti, Allegri, puntini, no, di ieri, compresi quelli che sputavano sulla macchina, 800 24 00 24, duro, quello è esagerato, ovviamente non si deve sputare sulla macchina di nessuno, però dopo siamo bravi tutti, no? Adesso è evidente, però prima uno deve esprimere un'opinione, se no aspettiamo tutte le partite, dopo se uno ha vinto diciamo che è bello, che è bravo, e se ha perso diciamo che è pacciotto, no? Diciamo che prima della partita, come ha messo lo stesso Allegri in una conferenza stampa, quando ha detto: se tutto lo stadio, tutti i tifosi della Juve, tutta la tribuna stampa ci è rimasta male delle mie scelte, e se perdevo erano cavoli miei, e invece ho vinto, quindi sono contento. Però di fatto lui in qualche modo, secondo me, ama anche provocare, perché, scusami, poi c'è sempre il suo discorso, lui è l'allenatore, li vede tutti i giorni, per l'amor del cielo. Ma se tu ti lamenti giustamente come tutti, no, che perdi i giocatori per le nazionali, l'unica volta che Cuadrado non è in nazionale, no? Sta lì due settimane ad allenarsi, arriva al Milan e City, non gioca nessuna delle due partite, e Morata ide. Cioè, le domande che fai, o certo, no? No, ma questo è sacrosanto, anche se io resto convinto del fatto che la Juventus che ieri sera Allegri ha disegnato sia la migliore possibile, con un'unica variante: il palo della luce fuori e Morata in campo, se mi permettete. Insomma, no, sono d'accordo, nel senso, Mandžukić, centravanti esperto, tutto quello che vuoi, però fino alla partita di ieri sera, dove ha giocato benissimo, secondo me da centravanti vero, anche perché gli ha chiesto meno colpi difensivi da Allegri, quindi era l'unico che rimaneva davanti ad aspettare i traversoni, però fino al giorno prima era il palo della luce. E quindi capisci, tu hai una partita così importante, è Morata che scalpita, ci resti un attimo perplesso, insomma, che non giochi dal primo minuto. Poi, per l'amor del cielo, ti ripeto, ha vinto, ha ragione, siamo tutti contenti. Che poi possiamo dire una cosa seriamente, facendo quelli seri, a parte che ieri Zuliani twittava l'Ariete, non il palo della luce, perché era già saltato sul carro dei vincitori. No, aspetta, l'Ariete è il soprannome. Appunto, ma perché non scrivi palo della luce? Perché non si può, il soprannome rimane lo stesso anche se uno gioca male, cosa c'entra? No, però volevo dire una cosa seria, che uno degli altri Ludovico giocava male da Super Feva, diventava Pippa Seba, uno degli altri luoghi comuni che possiamo provare oggi a sfatare è che alla fine in Europa si può vincere con il 3-5-2, perché adesso tutti i tifosi della Juve chiedono il 3-5-2, perché vogliono che giochino le ali, vogliono due punte. No, ma questa l'abbiamo detta, guarda, anche l'anno scorso, è veramente una fesseria, se mi passate il termine. No, cioè, però all'epoca di Conte, in cui appunto c'era questo tic-tac, come se negli decenni precedenti ci fosse stato un modulo con cui si vinceva in Champions e gli altri non andavano bene. Cosa c'entra? Dipende dai giocatori, da come interpretano, dal momento, dalle fissazioni dell'allenatore anche, dalle fissazioni dell'allenatore. Però secondo me Pardo, eccolo qua. Come va? Molto bene, abbiamo appena fatto sentire la tua voce mentre iniziamo. Mandžukić! Perfetto. Perfetto, meno male. Ha segnato Mandžukić? Sì. Sai che l'incubo, il palo della luce. L'incubo del telegramma sono in onda perché anche la cuffia. Sento niente, un classico. E ecco Capuano, però è bravo, non c'è niente da fare. Andiamo al traffico. No, l'incubo del telecronista è sbagliare il marcatore, però era un gol insbagliabile. Insbagliabile, esatto. Allora, fermiamoci un attimo. Zuliani al telefono, parlo di Capuano, ascoltatore 800240024, strade. Torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. È una squadra che ha dato stasera la conferma ulteriore che quando mette in campo determinate peculiarità è una squadra di alto livello e se la può giocare alla pari con quasi tutti, a meno che non hai la sfortuna di vedere il martedì sera il Barcellona, che allora lì un pochino ti passa l'entusiasmo. Ti passa la poesia. Magari poteva dire Buffon che abbiamo sentito, però mi piace Buffon che dice ce la possiamo giocare con tutti, anche perché è vero. Quanti messaggi? No. Sì, con tutti sì, nel senso che la Juve ieri a me è piaciuta. Con questo Barça, col Barça, se è così non se la gioca nessuno al mondo. Esatto. Detto questo, però posso dirti che secondo me la Juve non avrebbe perso come ha perso la Roma. Assolutamente. Non so se la Juve sia più forte della Roma in assoluto. Probabilmente la Roma non è più debole della Juve, nemmeno in questo momento, nonostante gli infortuni. Però è un fatto di spirito. Cioè, mi sembra che queste due partite, al di là dei risultati, che poi sono insomma chiaramente importanti, confermino un certo tipo di sensazione, cioè che la Juve è più smaliziata. Forse non è più forte, ma è più smaliziata. È più squadra. È più squadra, più, esatto. Probabilmente anche più orgoglio a qualcuno che è in grado di dargli, certo, di darle quanto non penso meno che avrebbe perso 6-1. Premesso che col Barcellona oggi si può perdere, si può perdere male, ma c'è tutti modo e modo, come, però credo come che abbiamo detto. E poi torniamo a parlare anche della Roma. Quanto ai messaggi c'è chi scrive: Juve ladrona anche in Europa. Vorrei che argomentasse meglio questo ascoltatore. Beh, credo ce l'abbia col gol di Mandžukić. Sì, secondo me c'era un mezzo fallo. Vedo che oggi tutte le moviole l'hanno. Secondo me l'ho anche detto in diretta che il dubbio c'era. Poi ho parlato con Graziano, che ha fatto poi la moviola e mi manda i messaggini in tempo reale. Chiaramente lui, mentre noi facciamo telecronaca, sta lì con la lente. Per Giuliani ha detto che non era fallo. Ha detto che era buono. Credo. No, per curiosità, di là che nel girone di Champions noi siamo in testa, ci sono tre partite dove gli arbitri ci hanno penalizzato, ma non si ricorda nessuno. Quello lì che fa il messaggino Luvera Drona si riferisce alla finale dell'anno scorso dove c'era un rigore su Pogba non dato, a quella che Real Madrid mi ha rubato 1-0 con gol di Mihajlovic fuori gioco, o all'altra finale con Borussia Dortmund di cui però Claudio si a quelle lì? Di cui però Claudio, guarda, io ti dico perché ho fatto una ricerca giusto qualche mese fa, non esiste testimonianza video del fuorigioco di Mihajlovic. cerca, non troverai nessuna immagine che testimonia in maniera incontrovertibile che se quel gol era in fuorigioco. Sul computer, così lo faccio vedere che è fuorigioco. Vai, ti aspetto. Va bene, quando vuoi, guarda, ce l'ho tutto sul computer. No, però possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che su quanto ha detto Pierluigi, cioè no, questa è questa Juventus, cosa qua, è una cosa diversa. Qua. No, però io oggi sono qui con un obiettivo. Qual è? Parlare di Massimiliano Allegri. Allora, detto, ma sono pronto, lo so, lo so, stavo parcheggiando, ho avuto problemi alla sbarra. Dedicato a tutti quelli che la seconda stagione Allegri. Allegri aziendalista che ha sbagliato il mercato, Allegri che è un pazzo a far giocare il palo della luce, Allegri nella che vince ridente, perché c'era Conte nella ridente Mönchengladbach, ore 19 gioca Lichtsteiner, tutti i giornali, ma è pazzo, ma è pazzo, ma Allegri è pazzo, ma che stiamo scherzando. Lichtsteiner segna ed è fra i migliori in campo. Arriviamo ieri sera allo Juventus Stadium, ma lo sai, non gioca Morata, non gioca, gioca Mangio, ma questo veramente, questo se le cerca, oh, ma se le cerca, se le cercata. No, detto questo, poi per carità non sto dicendo che Allegri sia il più grande allenatore della storia del calcio, però mi sembra sempre che ci sia un po' di doppio pesismo. Cioè, queste due cose, se le avesse fatte Mourinho, se le avesse fatte Conte negli anni d'oro, saremmo qui a fare le celebrazioni in piazza. E per me è stata una grande intuizione Mangio che ci ieri, perché al di là del gol ha avuto un'altra grande occasione, e perché ha dato un contributo di, anche di sacrificio, di sofferenza nei confronti della squadra, enorme. Poi è ovvio che ed era giusta anche la mossa di Morata a mezz'ora dalla fine. Sicuro. Con la difesa avversaria stanca, Morata è forte, per me in assoluto è più forte di Mangio che ci. Però insomma, Allegri poi rivede dalla mattina alla sera in allenamento. Non per te, penso per todo il mondo è più forte. Sì, di però sì, sì, però bisogna vedere forte, se funziona la squadra e al momento. Adesso che avete fatto il quadretto e anche Claudio Giuliani, siccome è lì contento che sta registrando, così se lo mette sul computer, vogliamo dire due cose che non sono piaciute. La prima è che la Juve ha concesso in una partita così giocata bene 5 palle gol nitide al Manchester City, e credo che questo sia il grande problema di quest'anno. 5 no, dai. Io mi ricordo due conclusioni a colpo sicuro sbagliate nel primo tempo, il retropassaggio di Marchisio, poi nel secondo tempo la paratona di Buffon e poi alla fine c'è l'ultima occasione, quella del Manchester City. Fanno 5. Quest'anno secondo me è il problema della Juve, che non puoi continuare a concedere spesso per errori tuoi, allora facciamo e delle palle gol. Poi facciamo ne così, un'altra, c'è un'altra. C'è un allenatore che ci ascolta, Nano Galleresi, buongiorno. Come va? Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ma che bella compagnia. Hai visto? Senti, il Portogallo, il tuo rapporto col baccalà. Mi manca il Portogallo, mi manca. E il baccalà manca. Pure? Il baccalà pure, sì sì. No, lì, amico no. Fiel, 365 modi. Ci sono tante cose buone lì che a volte non ce ne accorgiamo neanche, specialmente nell'Algarve, è un posto meraviglioso. Io sono più per la Valle del Douro, Douro Porto, però va bene anche l'Algarve. Viva il Portogallo. No, Portogallo. Hai sentito? Sei da nord. Sono da nord. Sì, sì. È un uomo del nord. Fa. Sì, chiaramente si vede. No, Nano, hai sentito quanto ha detto Capuano prima? Cioè, se si può trovare una pecca nella Juve di ieri sera e nella Juve magari di quest'anno, che concede troppo. Sei d'accordo? Io credo che in certe situazioni è anche ammissibile, cioè giochi contro una squadra come così forte, così tecnicamente preparata, ci sta che puoi concedere qualcosa, però l'importante secondo me è la reazione un po' del nostro calcio, perché dopo la brutta serata di Barcellona la Juventus ha portato non solo i 3 punti e la qualificazione, ma ha dato un senso un pochettino diverso di quello che le nostre migliori squadre devono rappresentare all'estero, perché veramente siamo rimasti tutti stupefatti da quello che abbiamo visto a Barcellona-Roma, e la Juventus secondo me, al di là dei gol, delle possibilità che ha dato, ha anche dimostrato di essere una squadra solida, una squadra che può solo che ancora migliorare visto le tante qualità che ha. Sì, dicevamo anche, ha sorpreso tutti l'ingresso al primo minuto di Mandžukić, però posso dire che Allegri forse è uno dei più bravi a leggere le partite e anche a cambiarle in corsa. Sì, è vero, l'ha dimostrato negli anni, logicamente come tutti noi allenatori siamo fenomeni e tra virgolette stupidi, perché sbagliamo, quando sbagliamo sembra che guardiamo da un'altra parte, invece noi credo che abbiamo sotto controllo tutto, e Allegri è molto attento a queste cose, credo che ha sempre fatto, anche quando era Cagliari e quando era il Milan, delle buone letture e anche delle buone interpretazioni delle gare, specialmente nella scelta dei giocatori, anche se poi veniamo criticati o lui viene criticato un po' di più essendo allenatore della Juventus. Sì, io ho avuto l'impressione che Claudio Zuliani, che l'euro finale dell'anno scorso abbia dato alla Juventus euro consapevolezza, vedo un atteggiamento molto diverso, sì, nella Juve, Claudio. No, sono assolutamente d'accordo. Intanto saluto a braccio il Nanu, 32 presenze e 7 gol con la coloriosa maglia della Juventus. Tanto si è mangiato il panini, ma che è? Zuliani si è mangiato il panini, ma che è? È stato poco purtroppo, ma nel poco è inciso, tanto per mettere in chiaro le cose. Questo non ci sono dubbi. E la figurina di Calderisi era particolarmente difficile. Anche il mio compagno di telecronaca una 15. Non mi si vedeva, allora era difficile. No, volevo dire una cosa su Allegri, che poi prima Pier, no, diceva appunto che sono ingiuste le critiche, eccetera. Però Pier, ricordati che non è che quando c'era Conte era soltanto rose e fiori. Se ben ti ricordi l'annata in Europa dove Conte esce e fa record di punti in campionato, i tifosi della Juventus lo hanno contestato tantissimo per aver fatto il record tralasciando la Coppa per strada. E avevano ragione, sì, da, sì, vendere, sì. Lasciami dire, ma hai la finale in casa di Europa League, la Champions League è anche un processo a tappe, no? Certo. Portati a casa quello, non è che ne hai vinte 8.000. L'allenatore della Juve lo sa che poi deve anche subire, sì, le contestazioni. Ma dico, non deve, però c'è un po' di pregiudizio. Cioè, io, a parte, non è vuoi più bene a mamma o papà, Conte è stato decisivo per la Juve e il lavoro di Allegri viene temporalmente dopo il lavoro di Conte, quindi ci sono tutti i meriti di Conte che nessuno gli toglie, per carità. Però mi sembra che ci sia sempre nei confronti di Allegri così, in generale, nell'atmosfera, come se fosse un mezzo scemo, capito? Cioè che sta lì. Ma cos'è la differenza vera? La differenza vera, e Calderisi te lo può confermare avendo vissuto lì, è che l'ambiente juventino è un po' da sempre, perché spacca l'Italia o da noi o dall'altra parte. Conte ha rappresentato, già era un ex giocatore, capitano e tutto, in più la rinascita, il tornare a vincere gli scudetti, cioè giocatori che sputavano sangue per la maglia, e quindi nella mentalità del tifoso della Juve è uno di loro, che poi quando è andato via, tra virgolette, è anche passato come mezzo traditore, perché ci sono rimasti tutti male. Arriva Allegri fa meglio in Champions il primo anno, bravissimo, che tecnica, che squadra. Poi nel secondo inizia ad avere grandi difficoltà, vedi che la squadra non ha più la cattiveria di prima, e allora il tifoso della Juve dice: ah, ecco, allora questo qua non è come quello di prima. Zulia ci sta spiegando, perché a giugno riprenderanno a braccia aperte Conte. Non credo. Fatto l'esegesi del perché a giugno saranno tutti sul carro di Conte. Non credo. No, volevo chiedere un'ultima cosa a Nanu Calderisi, invece: quanto queste due partite della Juventus in chiaro e della Roma in scurissimo, più nero del nero, possono influire su quanto verrà dal prossimo weekend in poi, cioè in campionato? Mi sente più? Dica. Nanu? Pronto? Ci sei? Ecco. Ci sei? Buon dia, Nanu Calderisi. Adesso vi sento. Portogallo. Sì, eravamo andati via un attimo. No, ascolta, volevo chiederti un'ultima cosa. Quanto le partite della Roma a Barcellona e della Juventus ieri sera col City possono influire sul campionato? Su quanto faranno in campionato ora? Secondo me parecchio. Sì, sono d'accordissimo. Io sono preoccupatissimo per la Roma, perché quello che abbiamo visto non è questione di essere tifosi della Roma, è questione di vedere calcio e ti rendi conto di quanta differenza c'è ancora tra una delle squadre più belle sotto l'espressione del gioco, dell'estetica da parte della Roma nel campionato italiano, contro una squadra che praticamente ha annientato ogni piccola speranza di poter divertirci o vedere una partita all'altezza. A livello mentale io credo che queste sono botte che fanno male, è successo già col Bayern l'anno scorso e mi auguro con tutto il cuore che questa sia veramente un passaggio a vuoto, e avendo anche la possibilità di vincere in casa e passare il turno, cancellare tutto. Domenica secondo me per la Roma sarà fondamentale, mentre per la Juventus io credo che una botta di autostima così serviva veramente tanto, non solo la Juventus ma tutto il calcio italiano. Sì, certo, grazie Nanu, a presto. Grazie, molto obrigado, molto obrigado. Mi può confermare che erano, visto che ha mangiato il panini, mi può confermare che erano 10 anni che la Juventus non passava il turno di Champions 2004, 2005, 2005, 2006. c'era Cappello, sì, sì. C'era Cappello prima della, della fine. Dopo di me 10 anni di dialogo prima del gol per sottobanco dei dirigenti italiani, che dovrebbero ringraziare ancora una volta la Juventus, visto che tutti fanno gli spiritosi, perché in Europa forse ve lo siete persi, ma è uscita la statistica, da quando c'è la Champions, dal 95 ad oggi, la Juve è al sesto posto del ranking, visto che in Europa non conta niente. Il posto che decide tutto stasera, se... E sorpasserà il Milan, quest'anno arriverà quinta, quindi prima italiana a difendere i nostri colori in Europa. Vabbè, adesso me li tieni tu gli ascoltatori, Zul. Adesso è comodo, io adesso vai, ti saluto, ti ringrazio. Comunque posso salutare l'amico Zuliani con l'altra cosa, secondo me, su cui bisogna riflettere, che alla fine aveva ragione Marotta. Altro che trequartista, questa squadra andava costruita diversamente e quindi... No, ma scusa, ma l'ho voluto io il trequartista. E quindi bravo Allegri, che alla fine farà funzionare la Juve, che gli ha servito Marotta dopo che per due mesi ci ha frantumato con il trequartista. Ciao Zuglia, se non sbaglio abbiamo la borsa. Sentiamo Claudio, le tieni tu, 800 24 0024, numero verde, borsa. Ovviamente. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. Tutti convocati. Tutti, anche Capogane e Pardo che sono qui con me. Everybody's here. E Giuseppe, provincia di Macerata, e Giovanni, provincia di Napoli. De Luca, telefono. De Luca, lo vedo oggi un poco... Che cosa c'è De Luca? Che c'è, sei preoccupato perché gioca, perché stasera Sarri fa giocare. Problemi ai denti? Callejon. Hai fatto la pulizia dei denti? La domani. Devi fare. Hai paura? Mamma che tenerezza. Ma la pulizia non fa niente, eh? Ma che cos'è la polizia? Ah, perché hai paura che ti trovino di tutto, tipo, sì. Okay. Antiche tribù indiane che si sono insediate lì. Giuseppe, tribù dei tartari. Li perdoni, sono ragazzi. Giuseppe, come va? Ci mancherebbe, buongiorno a tutti. Dica. Senta, io sono un tifoso juventino da sempre. E una cosa che mi dispiace è che purtroppo questa squadra non ha gioco. Non ha gioco perché basta vedere le vittorie della Juventus, le ultime 3 vittorie, quelle con il Torino, con il Milan, e l'ultima di sera la Juventus non ha dimostrato una grande forza, non ha dimostrato di avere un gioco rapido, veloce, bensì diciamo sinceramente che con il Torino il pareggio era più che giusto. Con il Milan sembrava di vedere una partita di promozione, sbagliavano sia la Juventus che anche il Milan. Quella è una roba brutta. Però ieri sera abbiamo pazienza, perché la Juventus aveva fatto una discreta partita, che si è lasciata anche guardare peraltro, e davanti non è che avesse il... Col Siviglia ha fatto una buona partita, col City all'andata ha fatto una buona partita. Io sul non avere gioco, no, sicuramente diciamo non è ancora... il picco estetico, non è il Napoli di Sarri. No, okay. Diciamo che è ancora in fase di, sì, work di, in progress, di no? Ricostruzione di un certo tipo di equilibri. Però insomma non mi sembra così drammatica la situazione. La Juve viene alle 3 vittorie consecutive in campionato, e lì secondo me ha brillato meno sicuramente che in Europa. C'è una differenza di rendimento secondo me fra Europa e Italia a favore dell'Europa nella Juve di quest'anno. Però i segnali, gli indizi cominciano ad essere parecchi e mi sembrano tutti positivi. Poi io non credo la Juve vincerà il campionato. Penso che crescerà e si avvicinerà. Però mi sembra che comunque insomma il peggio sia passato, e l'Europa secondo me può diventare il terreno di caccia quest'anno, il terreno di caccia. Ma mi sembra anche il fatto che anche perché Capuano ha i numeri. Capuano, dacci i numeri. No, i numeri sono che Allegri da quando è sulla panchina della Juve, pur avendo incontrato grandi avversari, ha fatto nelle partite dei Champions una media di quasi 2 punti a partita, 1,94. Per intenderci, Antonio Conte, che a giugno gli juventini riabbracceranno contenti per il ritorno, era 1,50. Garcia è sotto il punto 0,90, e quindi vuol dire che fa tanto. Questa è mentalità. Quando si dice, tra l'altro, Allegri è credo l'unico allenatore che non si è mai schiantato prima degli ottavi di finale in Champions, ha sempre traghettato la sua squadra oltre il primo turno. Quindi questi sono segnali importanti, come ad esempio il negativo è, io credo, un segnale da considerare il fatto che Garcia anche ai tempi del Lille in Champions non faceva risultato, perché le statistiche, i numeri della Roma e di Garcia in Europa sono numeri francamente imbarazzanti. Assolutamente, ma con Lille ci può anche stare, con la squadra che ha adesso secondo me meno, ma tra poco ne parliamo. Prima di, però, sentiamo Giovanni, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti, io vi seguo tutti i giorni. È un mese che volevo riferire perché volevo mandare un messaggio ad Allegri, al quale faccio i complimenti per i tiri, però il 3-5-2 credo che sia l'unico modulo, possibile per questa squadra per fare veramente bene per tanti motivi. Un'ultima cosa, volevo agganciarmi anche alla partita con il Barcellona e con la Roma. Volevo mandare un messaggio ai tanti personaggi come il direttore Liguri, che parlano sempre di Moiola, di andarsi a guardare la partita che ha fatto Chiellini ieri, un'autentica belva. Nella partita con la Roma e con il Barcellona non hanno fatto un fallo. Bene, sì. Vabbè, allora, guardi, allora facciamo così. Ne parliamo subito, andando prima a sentire com'è l'aria di Roma. Me so magnato il fegato. Tutte le cazzate che dice Sabatini dalla mattina alla sera non contano, è come la temperatura, è il 6-1 è quello che è su ufficiale, la percezione è che hai perso 10 o 12 a 2, perché la Roma c'ha il punteggio ufficiale e il punteggio percepito dai tifosi, che è una cosa, questa secondo me è incredibile, ma è così, perché quando io, ma perché dico questa cosa? Perché quando io ho parlato con i tifosi il giorno dopo, ah mamma quale 6-1, erano a 12, 13, è questo, quello è quello percepito, ma se è percepito significa che loro si sono mangiati 6 gol. Guarda, il mio trio sarebbe Bruno Conti che ritorna nell'area tecnica, Fabio Capello che è direttore generale e Spalletti allenatore. Indichiamo sempre Falcao, ma non so quanto lui sarebbe disposto, non so, dal Brasile a Roma a lavorare, io non ho idea se mi sarebbe, ma la giusta proposta, disponibile, eccetera eccetera. Certo, uno gli fa un propostone e poi noi abbiamo una squadra che vince lo scudetto senza giocatori. Per forza, ma tu c'hai Capello, Spalletti, Bruno Conti e Falcao, ragazzi, cioè la squadra ha vinto. Il Comintern, no? Marione, questo che è salutiamo. Un assaggio di Radio Romane. Il Comintern. Beh, commentato Conti di sulla fascia destra, Falcao. Capello era insomma un bel centrocampista, una bella mezzala. Spalletti non lo so, però Spalletti insomma. C'è Stefano Menichini, eh? Oh, come va? Ciao Stefano. Presente sul posto. Ecco. Com'è andato al merendero? Partiamo dalle cose serie. Andava bene? Mangiava bene? Vedo che stai informato, grazie. Sì, perché tramite il dottor Nobili, no? Salutiamo. Esatto. Indirettamente ho avuto un consiglio per il pranzo, diciamo così, prima dello stadio. Quello è andato benissimo, ma la città nel suo insieme è andata benissimo. E poi di che altro dobbiamo parlare? Basta, ma quindi sei stato alla Barceloneta, insomma, bello, no? Piacevole, musei, tutto bello, c'era pure Madonna, ha fatto più o meno come Garcia, una gita. Ma non c'è stato, giorni, no? C'è stato altro direttore, no? Che altro è successo? No, beh, c'è stato. Poi sei tornato. Sì, sì, sono tornato. Tutto bene, volo in orario. Tutto bene, in orario preciso, un aereo zeppo di romani che erano andati lì a vedere i musei. Sì, a vedere, sì, certo. Ma insomma, noi romani siamo persone comunque abituate alla cultura, alla bellezza, alla città, quindi è chiaro che si continua ad andare in giro. È come fosse aggiornamento professionale, no? Certo. Esatto. E allora spiegami perché ti tocca quella ciofeca di partita. Vabbè, eravamo lì di passaggio e siamo andati a vedere. No, guarda, che ti devo dire? Ho avuto un'esperienza, intanto per certi aspetti anche bella, perché come stavo con mio figlio, siamo andati in quello che nel gergo viene chiamato il settore, non so se avete presente, il settore, e cioè dove stanno i tifosi ospiti, quindi non in tribuna. Sulla luna. Lì nel piccionaia, lassù in alto, un freddo della miseria. E devo dire, dei ragazzi della curva si dicono tante cose, diciamo tutto il meglio, tutto il peggio, sono quello che sono, fanno gli slogan sui diffidati, insomma li conosciamo, però in certe circostanze stare in mezzo a loro alleggerisce, perché ti assicuro, vi assicuro che l'autoironia e la capacità di divertirsi lo stesso nonostante la situazione tragica e nonostante quello che pensavamo dentro di noi della squadra, dei giocatori eccetera eccetera, rappresenta in sé un'esperienza carina. Ve ne dico solo due. Tipo 80esimo è partito un canto che faceva 6-1 perché no, 6-1 perché no. Ed eravamo sul 6-0, no? Sul 6-0, sì. Si auspicava il 6-1. Beh, c'è, giustamente. E in effetti è quello che è arrivato poi, tra l'altro. Esatto, questa è una squadra che risponde comunque alle sollecitazioni dei ragazzi. Sì, sì, e sì. Poi un'altra fantastica, ho trovato fantastica, è stato quando hanno cominciato a intonare un canto che diciamo è molto frequente, o abbastanza frequente all'Olimpico, che era "Che ci siete venuti a fa", ed era indirizzato ai tifosi del Barcellona. Esatto. E chiaramente il significato, diciamo, se ci pensate un attimo, ci arrivate. Che frega, essere amichevoli, esatto. Allenamento, no, del posso dire una cosa adesso? Mettiamo il traffico così, sì, poi chiacchieriamo con calma. Dai, direttore, stai lì, non ti muovere. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Stefano Manichini è telefono con noi. Sì. Eccoci, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano qui con me, insomma arriviamo a bomba. No, fammi dire questa cosa che mi fa molto piacere, che Merighini, che insomma, cioè, è giornalista impegnato, no? Adesso impegnato, però voglio dire, insomma, non è giornalista sportivo, quindi tra il grande tifoso, sottolinei questo aspetto di goliardia, perché poi al netto degli episodi delinquenziali, che fanno parte ovviamente di qualcosa che deve essere censurato senza se, senza ma, e punito con la fermezza massima, non si può criminalizzare tutto l'universo dei tifosi, delle curve, la gente va in trasferta. Secondo me è veramente sbagliato, e quindi mi fa particolarmente piacere sentire questa testimonianza diretta, perché poi insomma altrimenti uno potrebbe pensare veramente che se vai nel settore ospiti a vedere una partita sei per forza in mezzo a un gruppo di criminali e devi sperare di sopravvivere. Visto che parli di questo, posso dire un'altra cosa? Io per la prima volta, insomma, ho viaggiato, sono stato molto spesso anche allo stadio, per la prima volta ho subito una perquisizione personale professionale, cioè erano molto aumentate le misure di sicurezza anche al Camp Nou, come sappiamo, e all'ingresso ognuno di noi, ma non ognuno di noi diciamo del settore ospite, ma tutti quanti i tifosi dello stadio hanno subito perquisizione, la mia personale, da parte di un signore che era grosso il doppio di Pardo, non so se avete presente. Mi sembra impossibile, comunque sì. Un armadio che mi ha messo le mani veramente dappertutto, ed era impossibile che io portassi dentro nulla di, diciamo, di più grosso, ma non so, di niente praticamente. Ora questo mi ha un po' fatto pensare, perché tutto sommato questa è una misura abbastanza basica, cioè non è che ci vuole soltanto di impiegare molti steward, ma per il resto non è una cosa altamente tecnologica. Come sapete al Camp Nou non ci sono i tornelli, e insomma mi viene il fatto di pensare che forse qui, se ci applicassimo un pochino, forse soluzioni a problemi annosi che abbiamo li potremmo trovare più facilmente di quanto pensiamo. Sì, chiudo il discorso tenendo conto che in questo momento misure di estremissima emergenza. Parliamo un attimo di Così abbiamo fatto di tutto, Stefano, per rimandare questo momento. Questo momento apprezzi questa forma di gentilezza nei tuoi confronti. Adesso però dici che deve fare la Roma adesso. Dici cosa ne pensi, anche perché l'aria l'abbiamo sentita, l'aria di Roma, la partita l'abbiamo vista, e l'unico che ha tentato come al solito la via della soluzione è stato l'allenatore, e non capisco perché. Ma sì, secondo me sbaglia a fare così il mister, obiettivamente, per carità, io ho avuto l'impressione che alle 8 di sera, quindi 45 minuti prima dell'inizio della partita, diciamo già fra noi tifosi è scattato l'interruttore al risultato definitivo della partita di Borisov. Probabilmente psicologicamente la partita di Barcellona è diventata un'altra cosa, ancora più, diciamo, un atteggiamento ancora più amichevole e forse remissivo di come non sarebbe stato in ogni caso. Poi, per carità, parliamo della Roma, però teniamo conto, io mi sono portato a Roma i giornali di Barcellona, che non parlano per niente della Roma, ma parlano di un Barcellona come loro dicono di non averlo mai visto. La partita del Camp Nou è stata considerata, alcuni hanno anche titolato così, il Santiago Bernabéu numero 2, ma con Messi, cioè il bis della partita, ma nessuno, guarda Stefano, ma nessuno lo mette in dubbio, no, la forza del Barcellona non la mette in dubbio nessuno. Il fatto che vai lì a giocare già qualificato può anche indurti a giocare la partita in maniera diversa. L'unica cosa che non devi fare è giocare una partita lì. Tra l'altro il 6 giugno, scusate, io credo che ne viene, diciamo, probabilmente la stagione della Roma non sarà specificatamente compromessa come risultati da quella partita, però la dimensione della Roma sì, in maniera molto pesante. Certo. È una squadra che a livello europeo è provinciale, non è neanche, non solo non è tra le grandi, non è neanche fra le seconde grandi. No, ma la fotografia è il 57esimo posto, adesso a voi annoiano i numeri nel ranking UEFA per club, cioè la Roma è quella roba lì, è anche questa Roma, visti i risultati, però voglio dire, senza mitizzare il Barcellona, il 6 giugno a Berlino c'è una squadra italiana, non che veniva da Marte, che per 20 minuti ha avuto in mano la finale contro un Barcellona che giocava al 100%, non contro quello che per 70 minuti ha passeggiato al Camp Nou divertendosi in un allenamento. Cioè, secondo me c'è quasi tutto della Roma in quello che è successo l'altra sera. E poi il Barcellona resta una squadra meravigliosa, ma il Barcellona non vince sempre come ha vinto con la Roma l'altra sera. L'Elche e il Granada hanno fatto figure migliori nella Liga quando sono andati al Camp Nou. Ma sicuramente. Io quello che ti dico è che secondo me, come dicevo ieri, c'era solo una cosa che la Roma doveva non fare contro il Barcellona ed è quella che è successa. Certo. Premesso che non è facile, è ovvio, tu ho visto che oggi hai twittato i 10 giocatori inclusi nella short list della FIFA come migliore. Ma il Barcellona in questo momento è una roba assurda e ingiocabile. Però appunto perché è ingiocabile e lo sai che è ingiocabile, devi andare lì con un atteggiamento maturo. Non puoi concedere sullo 0-0 con la difesa altissima tre occasioni nei primi 10 minuti. Cioè, veramente mi ha colpito quello che ha detto Filippo Maria Ricci ieri, visto dalla Spagna. Cioè, sembrava veramente che Garcia non avesse mai visto giocare il Barcellona e che i giocatori della Roma, perché ci sono le responsabilità anche dei giocatori, non sapessero che lì devi andare in trincea, devi resistere e devi puntare a una sconfitta onorevole, questa è la verità. Però quello che mi lascia perplesso è che questa partita ce l'ha avuto un precedente, perché quello olimpico la Roma ha impostato la partita esattamente così come la stai dicendo te, quindi una partita di questo genere la Roma l'aveva già fatta. Non era lo stesso Barcellona davanti, per carità. Il Camp Nou è un campo un po' diverso. Il Camp Nou è uno di quei casi dove il campo fisicamente non era ancora questo Barcellona, secondo esatto, me. Non era, no, ma questo che voglio dire, cioè l'obiezione che fai sembra che non sapessimo che cos'è il Barcellona. No, perché un'impostazione, diciamo, tattica. Sì, già c'era stata. Di quel tipo c'era stata e aveva dato un risultato. E perché stavolta non c'è stata? Ma secondo me c'è stata anche una debacle, diciamo, generalizzata dei giocatori. Non dobbiamo sottovalutare questo aspetto, alcuni veramente al di sotto del livello della decenza, una subalternità mentale sottintendente nei confronti degli avversari. Ora questo è, diciamo, mette in crisi una delle cose che all'inizio, quando Garcia era arrivato, sembrava invece essere un suo punto forte di forza, cioè di essere un motivatore. Sicuramente questo aspetto del lavoro dell'allenatore in questo momento è gravemente compromesso. Sì. Poi ci sono tutti i discorsi tattici, però poi alla fine. No, ma la tattica conta, secondo me, relativamente. È solo una questione di atteggiamento, come d'altra parte, con grande onestà, hanno sottolineato Mike Conn, hanno sottolineato Florenzi. Ma Mike Conn ha demolito Garcia l'altra sera. Secondo me è un campanello dalla. Beh, quando tu dici non si può giocare lasciando palla scoperta agli altri, a chi stai parlando? Non sta parlando a Florenzi, a Keita, sta evidentemente parlando di come è stata impostata la partita. E secondo me è un campanello d'allarme, c'era stato anche nei primi 20 minuti a Bologna. Va bene la pioggia, va bene Rocchi, va bene tutto, ma l'approccio della Roma a Bologna era stato, ne abbiamo parlato, se ti ricordi, Piero, anche domenica, era stato inquietante, perché in quella prima mezz'ora il Bologna meritava di essere avanti 2-3 gol e Rocchi con la pioggia non c'entrava nulla. No, certo, neanche il Bologna. Grazie Stefano Menichini, alla prossima. Ciao. Mi fate salutare Marti da New York, ci sta ascoltando in streaming e chiedeva di essere salutato. Ciao Marti. Ciao, beato te. Hi Marti, how you doing? You right? Allora, devo salutare Giovanni Capuano che deve andare. Io tengo devo andare. Che c'hai? Bambine avrete a scuola, che c'hai? GR tutti convocati. Debora, ti piacciono le favole? Ma certo. E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Che ne dici? Ah, bellissimo. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre daremo vita a una grande favola di Natale tutti assieme. Ogni giorno all'interno di Cuore e Denari io darò un incipit nuovo, a cominciare dal titolo. I grandi non dicono mai la verità. Vi piace? Molto. Io sono d'accordissimo. Così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24 e il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Così di giorno in giorno la favola crescerà e a Natale avremo una bellissima favola intera. Siete pronti? Tutti convocati. Allora, tra un attimo ti dico, quando arriverà l'ospite che stiamo aspettando, Pierluigi Pardo, cosa mi manda in bestia. Te lo dico dopo però, Prima vai. Ascoltatori: Massimo Siracusa, Cristian Bassano del Grappa, Nicola Bologna, Giro d'Italia totale. Partiamo da Siracusa, facciamo al contrario, risaliamo lo stivale al contrario. Massimo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Sono desideravo rispondere al signor Giuliani, semmai l'avessi dimenticato, che l'anno scorso la Juventus ha goduto di un calcio di rigore inesistente nella partita con Monaco ai quarti di finale e al ritorno per il Monaco non è stato dato un calcio di rigore netto e quindi il passaggio alle semifinali sicuramente è stata molto giocata. Sì. Poi in semifinale stesso con la Juve c'era un secondo rigore per il Real Madrid, atterramento in aria di Evra. Vabbè, sul Cicerino. Perché squadra tiene? Milanista. E poi volevo ancora ricordare a Giuliani che più che il punteggio UEFA sarebbe una cosa che gli darebbe più soddisfazioni se le superasse il Milan nelle coppe. Secondo me non è una questione di bandiera o di conteggio dei rigori. Io sono dell'idea che per vincere una Champions serve anche un certo numero di episodi fortunati. Valeva anche per l'Inter di Mourinho, ce lo ricordiamo con il Chelsea, il gol all'ultimo minuto al 97esimo di Iniesta in semifinale esatto, quindi insomma l'andata, però questo non toglie nulla ai meriti di quell'Inter e non toglie nulla secondo me ai meriti della Juve dell'anno scorso, detto questo è ovvio che nelle competizioni più sono brevi più sono liquide, l'ho detto, più sono liquide più sono brevi, è chiaro che l'episodio, il singolo episodio e quindi anche l'episodio arbitrale può pesare. È molto difficile arrivare dall'inizio alla fine per un vincitore senza avere comunque degli episodi fortunati sotto qualunque forma. Però io ti dico, ho fatto quest'anno quasi sempre la Juve in Champions, tranne che contro il Gladbach in casa. Mi ricordo il clima che c'era all'andata in casa del Manchester City, sembrava che dovesse essere un'esecuzione, Caporetto. Perché la Juve era veramente al suo momento peggiore, perché avesse appena pareggiato col Chievo, non aveva ancora mai vinto il campionato. E questa squadra ha dei valori e ha una personalità internazionale che secondo me la Juve ha dall'anno scorso. Poi c'è chi ricorda la neve di Belgrado, insomma, possiamo stare qua fino a notte. Il gol di Turone, la neve di Belgrado, possiamo stare qui fino a notte. E i riflettori di Marsiglia. Nicola da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Un saluto a Carlo, grazie. A Pierluigi e a Giovanni. Giovanni, allora, io, però ti vuole bene ugualmente. Lo salutiamo in differita. Dica. Benissimo, io sono un tifoso juventino e mi sorprendo come questa mattina tutti i giornali dicano Allegri ha beccato i cambi e sono bravissimo a far giocare Mandzukic, quel palo della luce, e a lasciare Morata in panca. Cioè io non sono assolutamente d'accordo con Morata e Quadrado in campo, forse avrebbe vinto 2-0, sì, 4-0 vinceva sicuramente. No, ma infatti ma scusa Pardo, ma c'è differenza tra Mandzukic e Morata? Vogliamo metterli a confronto? C'è differenza, ma che le devo dire? Mandzukic ha segnato, ha sfiorato un secondo gol clamoroso, Morata entra, ma io veramente, perché poi sembra che adesso sono del partito di Mandzukic, io dico che dobbiamo giudicare quello che abbiamo visto. Quello che abbiamo visto era certamente una grande sorpresa. Se mi chiede io chi avrei schierato, sono d'accordo con lei, avrei schierato Morata. mette Mandžukić. Mandžukić fa una grande partita perché fa un gol, perché ne sfiora un altro, grande parata di Hart, e perché dà un contributo complessivo in fase di ripiegamento molto molto importante. Non è un caso che negli ultimi 20 minuti la Juve abbia sofferto di più, perché c'era secondo me meno copertura complessiva, perché Morata è, ha altre qualità, ma quel tipo di lavoro che ha fatto Mandžukić ieri non, esatto, l'ha fatto. Ieri Mandžukić poi ha Morata fatto ha avuto così due grandi occasioni, le ha fallite di poco, comunque ha dimostrato di avere un talento eccezionale, ha fatto quella serpentina bellissima. Cioè non è vuoi più bene a mamma o papà su Mandžukić e Morata, ma se un allenatore fa una scelta, oltretutto una scelta assolutamente illogica, no, per quella che è l'opinione pubblica, controcorrente, e questa scelta si rivela così azzeccata, ma lo vogliamo riconoscere oppure dobbiamo dire che no, se avesse messo Morata vinceva 5-0? Vabbè, può darsi, manca la controprova, è il bello del calcio, però francamente mi sembra eccessivo, che... no? No, cioè boh, mi sembra eccessivo. No, te lanciano un personaggio televisivo che va molto bene, no, cioè, ma, no, ma se mettevi un altro faceva il triplo, no, anche il tifoso dovrebbe dire bravo che l'ha presa, così come l'Exciter, così come l'Exciter a Mönchengladbach, che tutti dicevano ma Allegri è matto a metterlo in campo dal primo minuto quando ha avuto i problemi che ha avuto, non ha ancora giocato un secondo eccetera. Quello poi, che è successo, poi sono le partite che Allegri sbaglia, avrà avuto anche culo, non lo so, però io propendo per una saggia lettura. Guardo un po' Paolo Condò, buongiorno a tutti, come va? Sono d'accordissimo con Pier, sì. No, perché? Sai perché, Paolo? Perché sennò finisce tutto. Cioè, allora, se Allegri, dopo una cosa come quella di ieri, viene trattato come uno che ha avuto culo, allora è finita. Ah, vuol dire che questo non potrà mai essere bravo. Perché se nel giorno in cui fa la scelta più controtendenza della storia, che nessuno avrebbe fatto, che io non avrei fatto, lo dico chiaramente, perché io così da fuori avrei fatto giocare Morata, se del giorno in cui fa questa scelta, e questa scelta si rivela clamorosamente, rischiando quante pernacchie, Paolo, rischiando quante pernacchie. No. Ma sai, l'allenatore è questo, l'allenatore è come Mancini. Quando ha fatto la formazione contro la Roma, che ha lasciato fuori Icardi, appunto. Cioè, gli allenatori sono questi, gente che fa la formazione che loro hanno in testa, può essere giusta, può essere sbagliata, ma se ne fregano di strizzare l'occhio al sentimento popolare, sì, ma o poi... in certi casi anche alla società. Fanno la formazione per ottenere il risultato. Cioè, noi abbiamo avuto in questa settimana, proprio con la formazione che Benitez ha messo in campo del Real Madrid del Classico, l'esempio opposto, esatto, una formazione. Accontentiamo tutti, accontentiamo il presidente, tutti, e la prendiamo nei denti. Accontentiamo tutti, sì, sì. Esatto. Facciamo una formazione non per vincere la partita, ma per fare in modo che se la perdo nessuno mi può dire niente sulla formazione, perché ho schierato quella che volevano. Ma e Allegri non è nemmeno la prima volta, sai, che lo sai perfettamente che sceglie di testa sua. E a me viene sempre in mente la partita dell'anno scorso, Spartiacque con Olympiacos, quando era sul filo della lama rasoio, e ha disegnato, certo, per la prima volta la Juventus che aveva in testa, e ha avuto ragione per l'ennesima volta. Questi sono allenatori, sì, allenatori, ma sono poi questi. Magari un po' forzando mi viene Allegri, da dire che per me Allegri è allenatore, non è il miglior allenatore al mondo, no, però ma è bravissimo a leggere le situazioni e sentire tante volte che viene considerato e trattato come fosse uno che non ha vinto niente, oppure che il secondo anno sbaglia sempre, oppure che quando vince è sempre perché c'è qualche motivo. Insomma, l'anno scorso per me la Champions della Juve rimane un capolavoro, chiaro, e lo dico chiaro, senza se e senza ma. Poi, volendo forzare un po', Allegri, da quando è alla guida della Juve, è arrivato ad una partita, cioè quella finale, e a 9 punti dal massimo della perfezione. Quella partita col Barça è arrivato a 10 minuti ed è a 9 punti dalla perfezione, a 10 minuti dalla fine, quindi appunto. Voglio dire, lui ha fatto una stagione eccezionale, e quest'anno, dopo aver commesso degli errori nella fase iniziale, però io non mi stanco mai di ricordare che nelle prime 8 giornate la Juventus ha giocato in casa della Roma, del Napoli e dell'Inter. Sì. Cioè, che assieme alla Fiorentina sono le prime 3 squadre, sì, in questo momento, sì, in campionato. Sì, e, sì. Ti dico una cosa: adesso guardi la classifica della Juve, c'ha 21 punti, e quindi ne ha quanti? L'Inter ne ha 29, mi pare. 30. Meno 9 dall'Inter, meno 7 della Napoli e Fiorentina, meno 6 della Roma. Allora, tu dai a questa Juventus 5 punti, cioè i 3 della prima giornata con l'Udinese, dove la sconfitta secondo me fu molto casuale, e i due persi col Frosinone nel recupero per il gol di Blanchard. Sì, questo, sono 5 questo, punti, certo. Adesso la Juve ne ha 26 dopo aver avuto quel calendario che ha avuto. Questo vuol dire poi anche, i punti anche li il persi, Napoli ha pareggiato a Carpi, sì, o certo, cioè, punti, la Roma a Verona. Punti li ha persi, i punti li ha persi, e quindi è giusto che ora se ne stia così lontano. Però andare a fare una contestazione globale come molti nostri colleghi, perché stiamo parlando di molti nostri colleghi, non tanto del popolo juventino. Beh, insomma molti nostri colleghi. Il fuoco amico, dicevo, su Allegri è sempre stato pesante, diciamo la verità. L'anno scorso io ricordo l'hashtag Allegri Mania da parte di molti che sembravano degli orfani inconsolabili di Conte, e poi insomma, si sono giustamente inchinati davanti ai risultati e davanti alla personalità nuova di questa Juventus. Quindi non so, io ti devo dire, beh, insomma. No, stavi dicendo a proposito di molti colleghi? No, ho visto comparire dopo Sassuolo, diciamo nei momenti più difficili, ho visto comparire sui giornali lo stesso pezzo, su tutti i giornali, da parte dei colleghi che frequentano il campo della Juve, dove si diceva: se Allegri non è immediatamente in discussione, ma se ci dovessero essere dei problemi anche in Champions e entro 3-4 partite il trend non dovesse cambiare, sono pronti Capello, Lippi, Spalletti, soliti noti, insomma. Sì, però avevo visto che i nomi erano gli stessi. Ora io ho una lettura abbastanza scafata dei giornali. Quando ci sono gli stessi nomi tutti quanti, allora significa che è filtrato da parte della società qualche velina. Perché altrimenti, se tutte le farine sono di sacchi diversi, uno scrive Montella, un altro scrive Capello, un altro scrive Guidolin, che ne so, tutte. Quando i nomi compaiono sono gli stessi, vuol dire che è filtrato qualcosa della società. Questo è già un bel tema di discussione. Io penso che a quel punto, diciamo un mesetto dopo Sassuolo. Sì, ma Sassuolo, c'erano anche state quelle parole di Buffon che si era presentato davanti alle telecamere, come sai bene, lì, da te a Sky. Non si è presentato prima di Allegri. E questo mi fa pure pensare. E quelle parole mi fanno pure pensare. Comunque, volevo invece condividere con voi, sì, prima che scappi il tempo, la considerazione di qui sopra che mi fa imbestialire. Molti scrivono anche oggi: il 6-1 della Roma, o dicevano ieri, è lo specchio del derelitto calcio italiano. Quell'andamento, no. Secondo me, è specchio di un bel niente. Due squadre negli ottavi, adesso tutti si grattassero, toccassero. Due squadre in Champions negli ottavi e tre in Europa League. Attualmente tra le grandi, hanno superato il turno. Guarda caso il City, che la Juventus ha piallato due volte. Barcellona, Real Madrid, e ti pareva? Bayern Monaco e Paris Saint Germain. L'anno scorso, allora, le inglesi che sono uscite a calci nel sedere al primo giro, che cosa dovevano dire? Cosa hanno detto gli inglesi? Ecco, le inglesi rischiano 3 su 4 rischiano di uscire. Sono lo specchio, non è vero. Poi c'è semplicemente questa cosa che pensavo pure prima: c'è anche una piccola cosa da dire, secondo me, sulla Roma, che chiaramente non è una scusante, però la Roma ha fatto queste figure pazzesche sia l'anno scorso che quest'anno contro Bayern e Barcellona. Ma è anche vero che la Roma ha ancora un ranking molto limitato, molto basso. Se dovesse riuscire a passare il turno, a crescere, insomma, a migliorare il suo ranking, anche la possibilità di fare queste figure verrebbe meno, no? Perché comunque avresti un girone complessivamente più facile, anche se prima di diventare testa di serie la strada da fare. Sì, quindi, insomma. Però voglio dirti, in assoluto, secondo me il calcio italiano si sta pian piano ricostruendo. L'abbiamo visto l'anno scorso, semifinali di Europa League l'anno scorso, adesso con ragionevole ottimismo, Paolo, magari ne mandiamo avanti le nostre tre in Europa League, e speriamo che alla Fiorentina vada bene questa sera a Basilea. Insomma, non mi sembra che ci sia da piangere a dirotto. Ti devo dire che io già da un po' di tempo, dalla scorsa stagione, ma a maggior ragione in questa, io vedo una rinascita del nostro calcio. La vedo abbastanza chiaramente. Ti dirò, a me piace anche molto il lavoro che ha fatto Conte con la nazionale. Anche a me. E con gli europei, mentre un anno fa ti avrei detto: ma non andiamoci nemmeno, perché siamo nella generazione più povera di talento della storia del nostro calcio. Adesso ti dico che Conte ha fatto molto più di quanto io mi aspettassi, E poi i club, abbiamo degli esempi come il Napoli e la Fiorentina, di squadre che giocano un calcio estremamente spettacolare, oltre che baciato dai risultati. E questa è una cosa che in Italia tutto sommato non c'era, perché negli ultimi anni abbiamo avuto squadre molto vincenti come la Juventus, però non mi rubava l'occhio dal punto di vista del gioco. Invece Napoli e Fiorentina quest'anno mi rubano l'occhio dal punto di vista del gioco. Abbiamo una Juventus che, come si diceva, è arrivata a 10 minuti dalla fine della finale, era 1-1 sì, con il grande Barcellona. Sì, secondo me ci sono delle situazioni contingenti. Ecco, Rudy Garcia non sa giocare contro quello che si chiama il gioco di posizione, cioè ha beccato da Guardiola, che è Barcellona, e dal Barcellona ha beccato bastonate terrificanti, dimostrando di non avere un'arma contro. Però per il resto comunque, ragazzi, le due partite della Roma con Leverkusen, sono state, cioè la differenza dominate, fra le due squadre da un punto di vista di qualità, da un punto di vista tecnico, da mille punti di vista, è stata enorme. È un miracolo che Leverkusen abbia fatto un punto su un punto in quelle due partite, anche se la Roma ha rischiato. Specchio del calcio tedesco? Una forzatura. Certo, non siamo, noi in questo momento non abbiamo un Barcellona, però Barcellona secondo me non ce l'hanno, neanche l'Inghilterra, neanche l'Inghilterra ce l'hanno, ecco, perché se l'unica qualificata del calcio inglese ad oggi è il City, che ha perso 2 volte su 2 sulla Juve, e con la Juve, no, questo vuol dire che non ce l'hanno neanche l'Inghilterra o un Barcellona. No, in Inghilterra, a dire la verità, la loro tendenza è molto più negativa della nostra, certo. sono tre anni che non mandano delle squadre avanti. Appunto, mi sembra un campionato che gode di ottima salute. Analisi oggi, sì, hanno troppi soldi in Inghilterra, hanno troppi soldi, e quindi ogni anno, magari non l'ha fatto quest'anno il Chelsea, che ne avrebbe avuto bisogno, però altre squadre ogni anno cambiano 5, 6, 7 giocatori, e andando a inseguire le ballerine più di moda del momento, e quindi per esempio ieri Sterling è entrato nel finale, ha sbagliato un gol che secondo me ciascuno di noi avrebbe realizzato, però in generale, se tu pensi che l'hanno pagato, l'ha detto ieri Pierre in telecronaca, quanto? 68, quanti milioni per Sterling. Una cosa del genere. Ma anche guarda, De Bruyne è un grande giocatore, però 74 milioni pure quelli, sì, vogliamo dire 45 per Otamendi, quella pippa di Mangalà che abbiamo visto giocare lì contro il Liverpool, ha fatto pure l'autogol, giocatore che è un visibilissimo giochino di procuratori. Hanno tanti soldi, comprano tanti giocatori senza badare granché al loro valore. Da questo punto di vista ti devo dire che il nostro calcio, che ha fatto una profonda cura dimagrante rispetto agli anni belli, perché tutti questi anni abbiamo avuto pochi soldi, ora non più, ora la Juventus ha tanti soldi. Sì, ha tanti soldi, neanche spesi di conseguenza. Ma come normale, ragazzi, l'ultimo contratto televisivo, al netto delle polemiche, delle indagini, di tutto, l'ultimo contratto televisivo è il secondo contratto al mondo, l'Inghilterra, più della Spagna. Piano piano stiamo cominciando anche a creare un po' di valore fuori dalla classica logica dei diritti televisivi, con gli stadi di proprietà, e comunque abbiamo dei brand buoni, perché comunque le nostre tre squadre principali del nord, ma anche Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, hanno comunque dei brand storici. Il calcio italiano, adesso non devo andare avanti, Torino, Genova, dico Palermo, tutte, vabbè, ci siamo capiti, sì. Hanno comunque dei brand storici, perché il calcio in Italia è una cosa importante. La nostra vera sfiga è che il calcio è diventato globale non negli anni 90, quando noi dominavamo in maniera assoluta, ma adesso. Seguito quando eravamo adesso, però i soldi ci sono in questo momento. I soldi la TV ne danno tanti, e cominciano a fare anche soldi le società fuori. Quindi bisogna solo spenderli bene. Paolo, io ti ringrazio. Buona giornata. Ciao, a tutti. Paolino, grazie. Mi raccomando, l'Europa League. Ciao, certo. Siamo lì a vedere la Fiorentina. Noi siamo che fa. Napoli è qualificato. gioca Insigne con Caleoni, sì, quella del Napoli è veramente un'amichevole stasera, sì, insomma, è l'eccezione che conferma la regola. L'Europa League è una posizione importante, dignitosa, e va seguita con grande attenzione. Il Napoli è stato bravissimo fin qui a dominarla, e quindi può stasera, secondo me, concedersi, sì, sì, sì, fare allenamento, una serata tranquilla, strana, no? Visto che c'è, senti, Napoli, fammi salutare Cristian Abbassano del Grappa, che ci ha aspettato per un sacco di tempo. Cristian, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Dica. No, niente, io devo parlarvi di Icardi. Ho letto che l'Arsenal voleva offrire 45 milioni per gennaio, mi sembra. Sì. E, no, io stavo pensando che fosse anche una cosa da prendere al volo per girarli su Gabbiadini. Io ho visto giocare Gabbiadini ancora al tempo del Cittadella, che aveva fatto un gol incredibile. Cose che facevano tipo Del Piero, sì, sì, ma anche quest'anno ha fatto qualcosina, il ragazzo. Sì, però ti dico, tra l'altro, io credo che il gioco adesso che ha Mancini con i due laterali comporta che la punta centrale non gli arrivano i palloni come se fossero solo due punte davanti, e quindi a lui serve un giocatore che si muovi molto come Gabbiadini davanti. Io credo che l'Inter abbiamo 10 secondi, però io credo che l'Inter debba aggiungere, togliere Icardi in questo momento potrebbe essere un segnale controverso. Sì, però Mancini fin qui è stato bravissimo. Io anche qui è come su Allegri, non ha sbagliato una partita Mancini, quella con la Fiorentina, in cui cambiano quattro moduli, ma per il resto tante volte ci ha sorpreso. E quindi ci può stare anche contro il Napoli scelga un tridente senza una punta centrale. C'è Ferrero? Che dice? Sciarpetta rosa. Salutiamo l'abate, che sentiremo domani, oggi è il suo compleanno. Domani facciamo gli auguri. Facciamo un po' di Napoli Inter. Vabbè, anche lunedì possiamo fare tanto Napoli Inter. Assolutamente. Domenica la puntata, perché martedì non facciamo Napoli Inter, sì. Pare. No, domani piuttosto siamo in esterna, Ah sì, domani siamo forum agenti e rappresentanti, ci trovate alla vecchia fiera campionale. Cerchi agendi, rappresentanti? Agendi, sì, no, non lo so dire che pubblicità, però cerchi agendi? Ma chi è l'agente di De Luca invece? Non chi lo è so, però lo rappresentiamo anche De Luca, il nostro autore, Giovanni Melchiori in redazione della Roccabella in regia. Ciao e adesso Enrico Ruggeri, il Falco e il Gabbiano. Ciao a tutti. Buona giornata.